Il punto di Stefano Folli. È sempre più evidente una contraddizione di fondo nel dibattito politico, una contraddizione fra il presente e il futuro immediato, fra l'oggi e il domani. Oggi la realtà parla di una campagna elettorale sempre più volgare e priva di contenuto, scandita assai più dalle immagini dello Stadio Olimpico di Roma che da un confronto significativo sull'Italia e l'Europa. Domani è il regno delle meraviglie promesse. Entro il 10 giugno avremo le riforme costituzionali. In estate si faranno i conti una volta per tutte con le società di calcio. Dopo maggio i 5 Stelle di Grillo chiederanno la guida del governo e tutto si sistemerà. In un modo o nell'altro saremmo quindi alla vigilia di cambiamenti radicali. Intanto però si continua a vivere in un presente sconfortante e l'Istat prevede una crescita minima dell'economia, segno che c'è uno scollamento crescente fra la realtà e le aspettative. È bene alimentare la speranza, ma attenzione a non alimentare attese che non saranno soddisfatte, perché la rabbia potrebbe poi prendere il sopravvento.